ha creato una grande aspettativa. Io sono sempre io, di più non vi potete aspettare. Buonasera, pronti? Dovete essere pronti, perché vi devo dire che generalmente quando mi preparo faccio gli appunti su un foglio di carta, ma questa volta ne ho due. Quindi, vedete, sapete perché? Mi sono modernizzato allora. Io faccio gli appunti sul cellulare, lì perché c'è la Bibbia, allora imbroglio tutto, non fa niente, però poi alla fine ne esco fuori. Però poi, alla fine, lo devo scrivere sulla carta, perché se no non esce da me, è qualcosa di una vita, allora lo devo fare. Voglio leggere un passo che ha del sorprendente e dell'incredibile. In Luca, al capitolo 16, il verso 8, è un passo che mi ha particolarmente toccato. Io devo dire anche che un buco mi ha anche offeso. Ma voi offendete qualche volta la parola di Dio? Vi sentite offese da quello che dice quando te lo dice personalmente? Ascoltate, e il padrone lodò, è un racconto che Gesù fa, lo sappiamo che viene una parabola anche prima, e il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza. Poiché, ascoltate, poiché i figli di questo mondo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. Com'è? Io faccio tanto di sforzarmi per mettere in pratica ogni piccolo passo della parola di Dio, ogni consiglio, ogni predicazione, prendo gli appunti e segno a modo mio quello che tocca a me di fare. E poi mi sento dire, i figli di questo mondo sono più avveduti di me. Un po' offeso ci sentiamo, è vero. Com'è? Però io per me stesso ho preso questo. Imita tutti, chiunque. Imita ognuno, che siano cristiani, che siano musulmani, che siano induisti, che siano di tutte le parti del mondo, ma persone che applicano i principi di Dio, perché lì è la benedizione e la vittoria del Signore. E noi dobbiamo imitare tutto questo perché noi lì riceviamo la vittoria. Vi faccio un esempio pratico che è reale nel mondo delle finanze, per esempio, no? Alla borsa ci sono persone che guadagnano un sacco di soldi senza lavorare. È vero. E non dovete pensare che questa è un'invenzione di questo secolo. Questa è un'invenzione di Dio, questo è un principio divino, perché Gesù racconta la parabola che noi conosciamo bene del tesoro nascosto. Vi ricordate? Allora, che cosa dice? Quest'uomo, una volta che ha trovato questo tesoro, lo nasconde, va a casa, vende tutto quello che ha, raccoglie tutti i soldi per comprarsi quel campo. Questo fa il mondo della finanza. Ora però bisogna anche dire che Gesù afferma anche che l'amore per il danaro è radice di ogni male. Quindi non il denaro non è malamente, è l'amore per il danaro. E questo noi dobbiamo comprendere, questo noi dobbiamo sapere che il Signore ci dice esattamente. Non è che i soldi sono sbagliati, no, è l'affetto, è l'amore, è l'impegno che noi mettiamo a tutti i costi, per ogni cosa, costi quello che costi, io devo avere, io devo di più, io così. Ed è questo amore, ed è questo amore che poi è radice di ogni male. Però noi dobbiamo imparare dai figli di questo mondo a fare soldi, e intendo spiritualmente, senza lavorare. Nella parola di Dio, la parola di Dio, anzi, è proprio il mezzo che ci permette di vivere, di avere una vita vittoriosa senza molta fatica. Non mi dovete dire, è difficile seguire il Signore, è difficile mettere in pratica la parola di Dio. Io vi vieto di dirlo, perché io vi assicuro che è molto più difficile seguire il diavolo e tutte le sue macchinazioni. È molto più di, perché basta dire questo, vedi, una semplice cosa che il diavolo fa. Tu dici una bugia. Subito dopo ti devi scervellare per sostenere con un'altra bugia la bugia che hai detto. E più vai avanti, devi dire tante di quelle bugie per sostenere quella prima bugia iniziale, che alla fine non lo sai nemmeno più tu. Non è più difficile questo? Non è molto più semplice che la parola di Dio dice la verità? Di la verità, comunque dovunque, e questo ti tirerà sempre fuori. Ecco quello che noi dobbiamo afferrare e che dobbiamo imitare. E il Signore anche introduce, non è questo il soggetto di questa sera, arriviamo. Ho detto, due fogli, la prefazione in come si dice, in proporzione, no? Perché il Signore Matteo capitolo 6 al verso 19 dice a te e a me, dice a tutti noi, non fatevi tesori su questa terra la cui ruggine e tignola li attaccano e li distruggono. Allora noi dobbiamo farci tesori dove? Nel cielo, dove né ruggine e né tignola attacca. Tutti i beni spirituali, la vita con il Signore che tu afferri, ti fa vivere felice su questa terra e ti fa continuare. È incredibile. Ti fa vivere. Qualche volta mi sono trovato a parlare con una persona che non credeva in Dio. Ho detto, allora io, non sapendo perché sono convinti, sai, non è Dio. Allora io ho detto, vabbè, allora facciamo un giochino, facciamo finta che tu hai ragione, Dio non esiste. Poi muori tu e muoio io. E non se ne sa più niente. Però mo facciamo finta che io ho ragione, e che Dio esiste, e muori tu e muoio io. Io so che vado con il Signore, e tu? Vedete la ricchezza che noi facciamo, non sempre la sappiamo quantificare, la afferriamo, ma è lì, è il tesoro nostro. E la parola di Dio dice che noi dobbiamo costruire questo tesoro, noi dobbiamo avere amore per le cose di Dio in ogni situazione che viviamo, amore per tutto quello che il Signore mette a nostra disposizione. E parleremo proprio del tesoro che è l'amore. Ora, logicamente, parlare dell'amore significa, è una parola così generica, che significa tutto e ogni cosa, specialmente oggi, nei tempi, è la parola più usata, è strausata, amore proprio che lo sentiamo dire dappertutto, ne conosciamo tutte le declinazioni e tutte le intonazioni dell'amore. Io ho alcuni esempi reali che mi sono accaduti, perché camminando anche sempre nella villa per venire o per andare alle parti, senti di tutto. Mentre camminavo c'era una donna che ha visto venire quello che era forse il suo marito, il suo fidanzato, non lo so che cosa, e come l'ha visto ha proprio sgranato gli occhi e la bocca e ha detto: amò. Però subito dopo ha detto proprio: amò, che vuoi essere accisa. E gli ha detto tante di quelle parolacce, e gli ha detto tante di quelle ingiurie, che è incredibile. Io ho aumentato il passo per non sentire che mi scandalizzavo io, e meno male che era l'amore suo, e meno male che era l'amore, e se non lo era, aveva la pistola. Vedete, non è questo il termine, il significato, anzi, ancora di più, ora è diventata talmente un nome, cioè non è più il significato di attitudini o di modi di vivere, è diventato un nome proprio sia di persone che di animali. Sempre nella villa, è una fonte di ispirazione, passata dalla villa, è una fonte di ispirazione. Lì vengono di tutti. Allora, c'era una ragazzina che diceva: amo, non ti mettere lì, amo, non andare nel... Era un cane! E gli parlava normalmente: amore, vieni qui, amore, fai quella. E io dico che se vi sento dire a un cane amò, vi vengo, io sono l'amore vostro, va bene? A me dovete dire amò. Al tuo fratello, alla tua sorella devi dire amore, perché siamo l'amore l'uno dell'altro, perché il Signore ci ha dato l'uno all'altro e ci ha unito con il suo amore, e questa è la nostra ricchezza. Però per essere pratici in questo termine che è l'amore, in quello che andiamo a vedere, io voglio essere pratico nel senso della vita quotidiana. Vi faccio una semplice domanda. Pensate a qualsiasi cosa dell'amore e ditemi: ma l'amore finisce? No. È bello sentire no, perché è lo sforzo vostro di rispondere a quello che io penso. Se dico no, mi trovo proprio bene. Vi leggo nella parola di Dio quello che dice in Matteo capitolo 24 al verso 12, è Gesù stesso che parla e dice questo a proposito. Dice: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Allora l'amore non è, fa la ruggine, prende la tignola. Allora l'amore, un'altra versione, dice verrà meno. Allora l'amore viene. Allora l'amore viene meno ed è reale, perché noi lo viviamo. È inutile che vogliamo rispondere alla maniera biblica. Noi dobbiamo vedere in modo naturale è quello che noi viviamo dentro di noi e intorno a noi. Ma che cosa viene meno dell'amore? Ed è questo che ci deve interessare, perché sono gli aspetti pratici che noi viviamo dell'amore, che vengono meno, che si raffreddano, che si affievoliscono. Ed è questi aspetti pratici che noi viviamo ogni giorno nella situazione marito moglie, con i figli, con i parenti, con sul lavoro, sono questi aspetti pratici che vengono meno e che noi dobbiamo alimentare, noi dobbiamo riscaldare, noi dobbiamo fare crescere. Dove troviamo scritto gli aspetti pratici dell'amore? Ditemelo voi, non quelli che c'erano stamattina, E chi è? 1 Corinzi 13. E io ho fatto questo, che li ho messi in un elenco, perché così possiamo confrontare e vedere. Vedete, già questo, amore è, questo è quello che dice 1 Corinzi 13, amore è, e sono ben 15 aspetti, 15, solo in 1 Corinzi 13, poi figuriamoci nel resto della parola di Dio. Ma già solo qui ci sono 15 aspetti: l'amore è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, gioisce della verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. È incredibile, già questo, logicamente. Ora, la pretesa non è quella che noi riusciremo ad applicare a ogni aspetto di questo, ma nel confronto dell'elenco noi vediamo che cosa viene meno e che non ci fa vivere quell'aspetto dell'amore. Per esempio, ecco, un esempio semplice, il primo, l'amore è paziente. Che cosa viene meno? La calma, la calma. E perché viene meno la calma? C'è un motivo ben specifico. Perché andiamo di fretta. Perché abbiamo fretta. C'è quel comico Baris che dice: togliti di mezzo che vado di fretta. Dove stai andando? Non lo so, ma vado di fretta. Ed è reale. È la fretta. E la parola di Dio ci addestra e ci ammaestra su come riscaldare la pazienza, su come riprendere la pazienza. In Proverbi, al capitolo 30, il verso 15, dice che la calma e la fiducia sono la vostra forza. La calma e la fiducia. Come si acquisisce la calma? Non lo so, io vi posso dare il mio metodo, però ognuno ha il suo. Il mio metodo, sapete qual è? È cambiato nel tempo. Il mio metodo per avere calma era: conta fino a 3. Adesso io conto fino a 10. E qualche volta faccio passare anche 3 giorni prima di dire una cosa. E per me funziona. Per me funziona. Cadono tutte quelle scaglie del di più e della cosa. Noi dobbiamo, in questa maniera si riscalda, in questa maniera si riaccende, in questa maniera si fa crescere la pazienza. Benevolo, vedete questo, benevolo. Benevolo, che cosa viene meno? La gentilezza. Non so se avete mai vissuto, io credo di sì, che voi entrate in un negozio, negozietto per fare spesa, e dite semplicemente buongiorno. Tutti si girano. Dici: che succede adesso? Una parola gentile, è scritto in Proverbi al capitolo 15, una parola gentile calma l'ira. Impariamo a dire, non ci vuole niente, noi dobbiamo imparare a dire le parole gentili. Questa sera c'è stato fatto fare esercizio dal pastore, di una cosa buona a fianco. E noi che cosa facciamo? ci giriamo, guardiamo la persona a fianco, e mo che devo dire? Non riusciamo nemmeno ad inventare le cose. Inventala! Mia moglie puntualmente, o che siamo in macchina o dovunque siamo, quello che dici, che mi dici? Mi dici una cosa buona? Poi, specialmente quando me lo chiede la mattina, non vi dico, viene un treno di silenzio, perché prima che mi riprenda la locomotiva si deve mettere in moto la mattina. Però questo è l'esercizio per ognuno. Impariamo a dire parole gentili. Questo vuol dire applicare l'amore. È facile puntare il dito ed accusare. Non ci vuole niente. Ma dire parole gentili lo dobbiamo trovare. Così possiamo continuare. Non invidia. Che cosa viene meno? La contentezza. Non siamo, e questa società ci porta a non essere contenti di niente. Anche a scuola, io mi ricordo quando avevo i ragazzi che andavano a scuola e prendevano un bel voto, 8. Io, dentro di me, sentivo il padre che cresce, tutto merito mio, mi sentivo veramente... E poi andavi a parlare con l'insegnante, che diceva? Poteva fare meglio. Cioè, ma che ci vuole a dire una cosa gentile all'altra? Questo riscalda l'amore dentro di noi, non lo fa finire, non lo fa affievolire. Se noi mettiamo in pratica quello che il Signore dice in questo, e poi dice non si vanta, non si gonfia, ecco, l'umiltà, l'apprezzare, è questo che viene meno, l'umiltà viene meno nel confronto con gli altri, di apprezzare gli altri, perché non dobbiamo apprezzare un altro, ma di qualsiasi natura e qualsiasi... Beh, prova ad apprezzare qualcuno che non ti conosce, o a dire semplicemente grazie, anche quando vado alla posta, io ho preso l'abitudine per me stesso che quando ho finito e ti fanno, diciamolo, ti fanno già come ti guarda, non ti guarda. Daniele, mi raccomando, non lo sai al pubblico, va bene. Io ho imparato per me stesso, quando ho finito l'operazione, 1, ringrazio, e 2, dico buon lavoro. Rimangono. Eppure è una cosa semplice, io vado via poi. Però li vedi che agiscono in maniera differente. Ora noi non andremo a studiare tutte e 15, però io vi chiedo, per piacere, andate a leggere 1 Corinzi 13, ci sono tutte e 15 queste cose, forse non lo sapevamo nemmeno che erano 15, perché li leggiamo come una cantilena, come una poesia. No, sono 15 aspetti dell'amore che noi dobbiamo imparare a praticare, a realizzare nella nostra vita. E così possiamo anche continuare, prendiamo qualcuno a caso, non addebita il male, l'autocritica, la critica ce l'abbiamo, ma mai nei nostri confronti stessi. E questo basta dire, quando tu vivi una situazione con tuo marito, con tua moglie, o al lavoro, o con gli amici, di chi è la colpa? Sempre dell'altro. Ed è quel sempre che ci deve preoccupare. Ma è possibile che è sempre colpa di mia moglie? Qualche volta deve avere pure ragione. Allora, se, anche se non lo vedi, inventala la ragione. E questo riscalda l'amore e fa vivere meglio la nostra situazione, la nostra vita stessa. Non fa vivere meglio gli altri. È probabile che non cambia la vita. Io credo di sì che cambia la vita degli altri, ma cambia soprattutto la mia, la nostra. E così a continuare, tutte e 15. Per piacere, facciamo questo esercizio. Io l'ho fatto, questo l'elenco a fianco è il mio studio, perché per ognuno di questi termini io l'ho trovato nella parola di Dio, con tanti diversi che spiegano il perché chi sopporta ogni cosa muore l'affetto. Perciò leggiamolo come un manuale, non come una poesia, e soffermiamoci su quello che vediamo venire un po' meno dentro di noi, che si è non dico che è morto, ma che si è affievolito. Comunque, continuare, sapete come finisce tutta questa storia? Qual è il passo conclusivo di questa storia? È il verso 8, sempre di 1 Corinzi 13, che dice: l'amore non verrà mai meno. L'amore non verrà mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita, ma l'amore rimarrà. Anche quindi se tu non impari ad amarmi qui, e figurati che lavoro hai dopo davanti al Signore, i primi 1000 anni la punizione, esercizio che ti sarà dato è imparare ad amare me. Quindi scegli la persona dentro al tuo cuore, senza dirlo, che meno ami. E lì esercitati. Generalmente qual è? Marito, moglie. Ma diciamolo chiaro, è una contraddizione. Prima è Gesù stesso che dice, e Gesù stesso dice, l'amore verrà meno, l'amore si raffredderà. E qua dice poi, l'amore non verrà mai meno. La parola di Dio è una contraddizione. La parola di Dio si contraddice? Secondo voi si contraddice la parola di Dio? Sì, è come se è contraddetto. Prima ha detto che non viene meno e poi viene meno. Ma sapete semplicemente che cosa vuole dire la parola di Dio attraverso di questo? Vuole dire semplicemente che applicando quello che la parola di Dio dice, noi possiamo cambiare. Ecco perché si contraddice. Noi possiamo cambiare. E se io cambio, anche in un solo di quegli aspetti che abbiamo visto, anche in uno solo, sapete che cosa succede? Non solo io vivo meglio, ma io sono in grado di cambiare anche chi mi è vicino. E non sono che a metà. No, stiamo per terminare, ma grazie per la puntualità, grazie per l'amore che hai nel... che bello, eh? Anche questo è un servizio bellissimo, è tutt'uno con il messaggio. Non ti preoccupare, continua, non mi dà noia il sottofondo, anzi, sottolinea ancora di più, ma andiamo... realmente un poco verso la conclusione. Noi, strada facendo, cioè nel vivere quotidianamente, perdiamo alcuni pezzi di quell'elenco, è vero, li perdiamo, qualche volta perdiamo la pazienza, qualche volta perdiamo, che ne so io, l'invidia, voglio dire al contrario, no? È esattamente quelle cose. Andiamole a leggere che ci fanno bene. Strada facendo noi li perdiamo, ma allora come fare? Come fare per riscaldare? Io offro un altro metodo che con me, sempre con me, nella mia vita personale, funziona, ma che anche la parola di Dio suggerisce. Come fare per riscaldare quegli aspetti? Come fare per dare vigore di nuovo a quegli aspetti che sono venuti meno? È come un trapianto. Se io ho bisogno di essere trapiantato in un organo del mio corpo, che cosa deve succedere? Allora? Ecco, un altro deve, devo trovare un donatore che mi dà l'organo di cui ho bisogno. Ma questo donatore come deve essere affinché io ricevo quell'organo? Morto. Deve essere morto. Se non è morto, io non ricevo quell'organo, puoi essere certo. Io con tutto me stesso, con tutto il mio amore, se hai bisogno di un cuore, ti vorrei dare il mio cuore. Però vita tua, morta meam, non è che funziona tanto bene, no? Deve essere morto, ed è esattamente quello che la parola di Dio dice in Colossesi al capitolo 3, al verso 5, è scritto che Paolo dice: fate morire le vostre membra sulla terra, e che sono il peccato, e poi ne nomina tanto, andatelo a leggere, Colossesi capitolo 3, fate morire le vostre membra. Allora quello che io devo fare, quello che tu devi fare, devi trovare qualcuno che è morto, che ha fatto morire le sue membra del peccato. Perché la realtà è questa, che se in me muore un aspetto negativo della mia vita, muore l'odio, muore il rancore, sai che quello diventa la mia punta di diamante, diventa la mia punta di forza, perché il rancore è morto. Allora trova queste persone, imitale e copiale. E fai come loro, perché per questo ci ha dato come famiglia l'uno all'altro. Non è solo volemo se bene, così alla romana, no? No, è imitare, è mettere in bravo. Ora il fratello che ti sta a fianco, che ti sta dietro, che ti sta avanti, io te l'assicuro al 100%, è peggio di te. È peggio di te. Però ha una cosa, ha qualcosa a cui è morto, e che è la sua forza. Imita quello, e questo fa crescere la vita vittoriosa del Signore dentro di noi. Gesù ha detto in Matteo capitolo 11 al verso 28, lo conosciamo molto bene, quello è il vento, se siete aggravati, se siete stanchi, la vecchia traduzione, venite a me, io. E poi che cosa dice? Perché diminuiamo la voce? E poi dice: imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore. Ma grazie. E Gesù, se non lo è lui, come lo vedo se non è lui? Non è così. Ebrei al capitolo 5, al verso 8, è scritto benché fosse figlio, benché, noi possiamo aggiungere, fosse Dio stesso, benché fosse il nostro Salvatore, imparò l'ubbidienza da che cosa? Da quello che soffrì. Gesù ha dovuto imparare l'ubbidienza. Ecco perché ci ha detto: imparate da me, perché sono umile e mansueto di cuore. Ecco perché il Signore ci può dire questo, perché Lui stesso lo ha imparato. Allora, se tu imiti un fratello, una sorella, è perché lo ha imparato. E noi siamo quei donatori, noi siamo capaci di dare i nostri organi, perché tanto è cambiata la nostra vita. Ha molto da cambiare, molto di più, io non lo metto in dubbio, ma quello che è cambiato è una bomba atomica capace di trasformare e cambiare il cuore nostro e il cuore di chi ci sta vicino. Perciò noi lo possiamo fare per un semplice motivo, e qui concludo. Lo possiamo fare per un motivo solo, non perché realmente siamo capaci di amare, di applicare tutto questo. Dobbiamo essere anche onesti con noi stessi nella pratica, perché non è che riusciamo a fare quelle cose, ma la nostra capacità ci è data da Dio, perché è scritto, questo lo leggiamo ancora in Romani al capitolo 5, verso 5, è scritto: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Tu hai l'amore di Dio, io ho l'amore di Dio dentro di me. Io non devo fare appello al mio amore, alle mie capacità, alla mia forza. Io devo fare appello all'amore di Dio che Lui ha messo tramite lo Spirito Santo. E quando non lo vedo applicare, io mi devo impegnare a ricercare il Signore affinché il Suo amore dentro di me cresce nelle situazioni. Non l'amore generico, ma nelle situazioni specifiche, perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E vedete che i frutti dello Spirito, io quando ho studiato la parte di quello che viene a mancare, l'ho preso molto dai frutti dello Spirito Santo. E nei frutti dello Spirito Santo c'è proprio l'autocontrollo, la contentezza e tutte quelle cose. Ed è quello che viene a mancare. E lo Spirito Santo vuole che noi portiamo quei frutti, che noi cresciamo in quello. Perciò facciamo appello a quello che il Signore ci ha donato. E quella è la nostra forza. Non è quello che noi abbiamo, ma quello che Lui ci ha dato. In Colossesi, sempre in Colossesi, nei versi precedenti è scritto che noi siamo morti in Cristo e si fa sempre questo gesto, e siamo nascosti con Cristo in Dio. È bellissima questa immagine. Siamo nascosti con Cristo in Dio, siamo completamente avvolti del suo amore quando noi lo ricerchiamo e lo applichiamo nelle sue cose pratiche. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Signore, vogliamo dirti infinitamente grazie per l'opera che tu hai compiuto dentro di noi, oh Signore. Noi possiamo affermare che siamo quello che siamo grazie all'amore tuo. Possiamo essere poco o molto, Signore, ma quello che siamo lo dobbiamo a te. E vogliamo essere anche l'immagine tua su questa terra, nel nostro mondo, dove ci troviamo, perché tu meriti, ma anche questa umanità merita di conoscere l'Evangelo tuo per poter gioire e vivere pienamente. Ti ringraziamo ancora una volta, oh Padre, per la parola che ci hai affidato. Grazie Gesù. Amen.